Il sabato aveva anche quest'altro di particolare, che quel giorno, durante il mese di maggio, uscivamo dopo pranzo per andare al mese mariano. Siccome ci capitava di incontrare a volte Vantei, severissimo nei confronti di quella deplorevole genia di giovani trasandati secondo le idee del nostro tempo, la mamma si assicurava che nel mio abbigliamento non ci fosse niente fuori posto, poi ci si avviava verso la chiesa. Mi ricordo di aver cominciato ad amare i biancospini proprio nel mese di Maria. Non ce n'erano soltanto nella chiesa, così santa, ma anche dove avevamo il diritto di entrare, posati persino sull'altare. Inseparabili dai misteri alla cui celebrazione prendevano parte, insinuavano tra i ceri e i vasi sacri i loro tralci intrecciati orizzontalmente in un assetto festoso, resi ancor più leggiadri dai festoni del fogliame sul quale erano disseminati a profusione, come su uno strascico di sposa, mazzolini di boccioli di un candore abbagliante. Ma senza osare guardarli se non furtivamente, sentivo che quegli apparati sfarzosi erano vivi e che la natura stessa, accentuando la frastagliatura delle foglie e aggiungendo il supremo ornamento di quei bianchi boccioli, aveva reso la decorazione degna di quello che era a un tempo un tripudio popolare e una solennità mistica. Più in alto, qua e là, s'aprivano le loro corolle con grazia noncurante, trattenendo così distrattamente, come un ultimo vaporoso paramento, il fascio degli stami, fini come fili della Vergine, da cui erano interamente avvolte in una nebbia, tanto che io, nel seguire, nel cercare di mimare dentro di me il gesto della loro fioritura, l'immaginavo come il movimento del capo, rapido e sventato, lo sguardo civettuolo, le pupille strette di una bianca fanciulla, distratta e vivace. Vantei era venuto con sua figlia a sedersi accanto a noi. Di buona famiglia, era stato il maestro di pianoforte delle sorelle di mia nonna e da quando, dopo la morte della moglie e un'eredità ricevuta, si era ritirato nei dintorni di Combray, lo ricevevamo spesso a casa nostra. Ma essendo di una verecondia eccessiva e affettata, aveva cessato di farci visita per non incontrare Swann, che aveva fatto quello che lui chiamava un matrimonio sconveniente, secondo la moda corrente. La mamma, avendo saputo che componeva musica, gli aveva detto per cortesia che quando fosse andata a trovarlo, lui avrebbe dovuto farle ascoltare qualcosa di suo. Vantei ne sarebbe stato molto felice, ma spingeva l'educazione e la bontà a tali scrupoli che, mettendosi sempre nei panni degli altri, temeva di annoiarli e di apparire egoista, seguendo o semplicemente lasciando indovinare il proprio desiderio. Il giorno in cui i miei erano andati a trovarlo, li avevo accompagnati, ma mi avevano permesso di aspettare fuori, e siccome la casa di Vantei a Montjouvain era situata ai piedi di una collinetta boscosa, dove m'ero nascosto nell'attesa, ero venuto a trovarmi al livello del secondo piano, a mezzo metro dalla finestra del salotto. Quando gli era stata annunciata la visita dei miei genitori, avevo visto Vantei affrettarsi a mettere in bella vista sul pianoforte uno spartito. Ma una volta che loro erano entrati, l'aveva preso e messo da parte, di sicuro nel timore di destare in loro il sospetto che fosse lieto di vederli solo per poter eseguire qualcuna delle sue composizioni. E ogni volta che, nel corso della visita, la mamma era tornata alla carica, lui aveva ripetuto: «Ma non capisco che abbia messo quella roba sul pianoforte, non è quello il suo posto». E aveva deviato il discorso su altri argomenti proprio perché lo interessavano di meno. La sua unica passione era sua figlia, che sembrava un ragazzo e aveva un'aria così robusta che non si poteva fare a meno di sorridere nel vedere le precauzioni che il padre prendeva per lei, tenendo sempre a portata di mano qualche scialle supplementare da gettarle sulle spalle. La nonna ci faceva notare l'espressione dolce, delicata, quasi timida, che passava spesso nello sguardo di quella ragazzina così rude, dal viso cosparso di lentiggini. Appena pronunciata una parola, lei la intendeva con lo spirito di coloro a cui l'aveva rivolta, si preoccupava di possibili malintesi, e dietro l'espressione mascolina da buon diavolo, si delineavano come in trasparenza i tratti più delicati di una fanciulla sofferente. Quando, al momento di lasciare la chiesa, mi inginocchiai davanti all'altare, sentii all'improvviso, rialzandomi, un profumo dolce amaro di mandorle sprigionarsi dai biancospini, e notai allora sui fiori delle piccole zone più bionde sotto le quali immaginai dovesse celarsi quel profumo, come sotto le parti croccanti il sapore di una torta frangipane, o sotto le felidi quello delle guance di Mademoiselle Vanteuil. Malgrado la silenziosa immobilità dei biancospini, quel profumo intermittente era come il mormorio della loro intensa esistenza, di cui l'altare vibrava come una siepe campestre visitata da antenne viventi, alle quali facevano pensare certi stami quasi rossi che sembravano aver serbato la virulenza primaverile, il potere irritante di insetti ora mutati in fiori. Uscendo dalla chiesa, parlavamo un momento con Vanteuil davanti al portale. Lui si intrometteva tra i monelli che litigavano sulla piazza, prendeva le difese dei più piccoli, faceva prediche ai più grandi. Se la figlia, col suo vocione, ci diceva come fosse contenta di vederci, subito dopo era come se in lei una sorella più sensibile arrossisse per quella frase da bravo ragazzo un po' sventato, che avrebbe potuto farci pensare di voler sollecitare da parte nostra un invito. Suo padre le gettava un mantello sulle spalle, tutti e due salivano su un piccolo calesse che lei stessa guidava e tornavano a Montjouvain. Quanto a noi, siccome l'indomani era domenica e non dovevamo alzarci che per la messa solenne, se c'era la luna e l'aria era tiepida, mio padre, invece di farci tornare subito a casa, per amor di gloria, ci portava a fare, passando per il Calvario, una lunga passeggiata che alla mamma, dato il suo scarso senso di orientamento, sarebbe apparsa come la prodezza di un genio strategico. A volte andavamo fino al viadotto, le cui arcate di pietra cominciavano dalla stazione e rappresentavano per me l'esilio e lo sconforto al di fuori del mondo civile, perché ogni anno, venendo da Parigi, ci veniva raccomandato di fare molta attenzione, una volta giunti in vista di Combray, di non lasciar passare la stazione, di prepararci in anticipo, perché il treno ripartiva subito dopo 2 minuti e si inoltrava sul viadotto, al di là dei paesi cristiani di cui Combray segnava per me l'estremo limite. Tornavamo per il viale della stazione, dove sorgevano le ville più eleganti del paese. In ogni giardino, il chiaro di luna, come Hubert Robert, disseminava i suoi gradini scheggiati di marmo bianco, i suoi getti d'acqua, i suoi cancelli socchiusi. Il suo chiarore aveva distrutto l'ufficio del telegrafo. Non ne restava che una colonna spezzata a metà, ma che conservava la bellezza di una rovina immortale. Io trascinavo le gambe, cascavo dal sonno. Il profumo dei tigli mi appariva una ricompensa che si poteva ottenere solo a prezzo di immense fatiche e di cui non valeva la pena. Da cancelli molto distanti gli uni dagli altri, i cani, destati dai nostri passi solitari, alternavano i loro latrati, come mi accade ancora a volte di sentire la sera. E tra quelli è andato certamente a rifugiarsi il viale della stazione, quando al suo posto fu creato il giardino pubblico di Combray. Perché dovunque mi trovi, quando quelli cominciano a echeggiare e a rispondersi, subito lo rivedo con i suoi tigli e il marciapiede rischiarato dalla luna. All'improvviso, mio padre ci faceva fermare e chiedeva alla mamma: «Dove siamo?» Esausta per la passeggiata, ma fiera di lui, gli confessava teneramente che non lo sapeva proprio. Lui alzava le spalle e rideva. Allora, come se l'avesse estratta dalla tasca della giacca, insieme alla chiave, ci mostrava, diritto davanti a noi, la porticina posteriore del nostro giardino, che era venuta ad attenderci con l'angolo di Rue Saint-Esprit, al termine di quegli itinerari sconosciuti. La mamma gli diceva con ammirazione: «Sei straordinario!» E a partire da quel momento non avevo più un solo passo da fare. Era il terreno a camminare per me in quel giardino dove da tanto tempo i miei atti avevano smesso di essere accompagnati da un'attenzione volontaria. L'abitudine veniva a prendermi tra le sue braccia e mi accompagnava fino al mio letto come un bambino piccolo. Se la giornata del sabato, che cominciava un'ora prima, e per lei senza Françoise passava più lentamente delle altre, la zia ne attendeva tuttavia con impazienza il ritorno sin dall'inizio della settimana, come l'unica che avesse in sé tutta la novità e la distrazione che il suo corpo indebolito e maniaco fosse ancora capace di sopportare. E tuttavia non è che non aspirasse anche lei ogni tanto a qualche cambiamento più grande, che non conoscesse quei momenti di eccezione in cui si ha sete di qualcosa di diverso dall'usuale, e coloro cui la mancanza di energia o di immaginazione impedisce di trarre da se stessi un motivo di rinnovamento, richiedono al minuto che viene, al postino che suona, di recare loro qualcosa di nuovo, forse anche di peggiore, un'emozione, un dolore. Quel momento in cui la sensibilità, che il benessere ha fatto tacere come un'arpa indolente, vuole risuonare al tocco di una mano, anche se brutale, e a rischio di esserne infranta. In cui la volontà, che ha così difficilmente conquistato il diritto di abbandonarsi senza ostacoli ai propri desideri, alle proprie pene, vorrebbe gettare le redini nelle mani di avvenimenti imperiosi, anche se crudeli. Senza dubbio, poiché le forze della zia, che si esaurivano al minimo sforzo, le tornavano solo goccia a goccia durante il riposo, il serbatoio era molto lento a riempirsi e passavano mesi prima che lei avvertisse quel lieve sovrappiù che ad altri proviene dall'attività e di cui lei era incapace di sapere e decidere che uso farne. Non dubito che allora, come dopo un certo tempo, proprio dal piacere che le procurava il quotidiano ritorno del purè, di cui non si stancava mai, finiva col nascere il desiderio di sostituirlo con patate alla bechamel, mia zia traesse dall'accumularsi di quei giorni monotoni a cui teneva tanto l'attesa di un cataclisma domestico, limitato alla durata di un momento, ma tale da forzarla a compiere una volta per tutte uno di quei cambiamenti che, lo riconosceva, le sarebbero stati salutari e ai quali da sola non riusciva a risolversi. La zia Léonie ci amava sinceramente e ci avrebbe pianto di cuore. L'idea che in un momento in cui si sentiva bene e non aveva i suoi sudori, le giungesse la notizia che la casa era in preda a un incendio, in cui noi eravamo già tutti morti e che in breve non avrebbe lasciato in piedi una sola pietra dei muri, al quale però lei avesse avuto tutto il tempo di sfuggire senza affanno, a condizione di potersi alzare subito dal letto, ha dovuto abitare spesso le sue speranze, perché avrebbe unito ai vantaggi secondari di farle assaporare in un lungo rimpianto tutta la tenerezza che nutriva per noi e di essere lo stupore del villaggio per il modo in cui portava il nostro lutto, coraggiosa e affranta, moribonda in piedi. Quello ben più prezioso di costringerla una buona volta, senza perdere tempo, senza possibilità di snervanti esitazioni, ad andare a trascorrere l'estate nella sua bella tenuta di Mirugrin, dove c'era una cascata. Non essendosi mai verificato un evento del genere, di cui lei certamente vagheggiava l'esito quando era sola, assorta nei suoi innumerevoli giochi di pazienza, e che l'avrebbero gettata nella disperazione al primo accenno di attuazione, al primo di quei piccoli fatti imprevisti, di quella parola che annuncia una cattiva notizia e di cui non si può più dimenticare l'accento, di tutto ciò che reca l'impronta della morte reale, così diversa dalla sua possibilità logica e astratta, si accontentava, per rendere di tanto in tanto la sua vita più interessante, di introdurvi delle peripezie immaginarie che seguiva con passione. Si divertiva a immaginare tutto a un tratto che Françoise la derubasse e che lei, ricorrendo all'astuzia per sincerarsene, la cogliesse sul fatto. Abituata, quando giocava a carte da sola, a fare contemporaneamente il suo gioco e quello dell'avversario, formulava a se stessa le scuse imbarazzate di Françoise e vi rispondeva con tanta foga e indignazione che, quando qualcuno di noi entrava in uno di quei momenti, la trovava in un bagno di sudore, gli occhi scintillanti e i capelli posticci fuori posto a scoprirle la fronte calva. Dalla stanza vicina, forse Françoise ebbe modo di sentire qualche volta i feroci sarcasmi che le venivano rivolti e la cui invenzione non avrebbe recato sufficiente sollievo alla zia se fossero rimasti allo stato puramente immateriale e se, sussurrandoli a bassa voce, non li avesse resi più realistici. Ma a volte non le bastava nemmeno questo spettacolo in un letto. Voleva metterli in scena veramente i suoi drammi. Allora, una domenica, con tutte le porte misteriosamente chiuse, confidava a Eulalie i suoi sospetti sull'onestà di Françoise, la sua intenzione di liberarsi di lei, e un'altra volta a Françoise i suoi sospetti sull'infedeltà di Eulalie, che sarebbe stata messa alla porta al più presto. Qualche giorno dopo era disgustata della sua confidente del giorno prima e riconciliata con la traditrice, l'una e l'altra destinate del resto a scambiarsi i ruoli nella successiva rappresentazione. Ma i sospetti che poteva a volte ispirarle Eulalie non erano che un fuoco di paglia e cadevano presto per mancanza di alimento perché Eulalie non abitava con noi. Diverso era il caso di Françoise, di cui la zia avvertiva la continua presenza sotto lo stesso tetto, senza però azzardarsi a scendere in cucina per sincerarsi della loro fondatezza, per timore di prendere freddo alzandosi dal letto. A poco la sua mente non ebbe più altra occupazione che cercare di indovinare quello che in ogni momento Françoise potesse fare e tentare di nasconderle. Ne osservava i più furtivi mutamenti di espressione, una contraddizione nelle sue parole, un desiderio che paresse voler dissimulare, e le dimostrava di averla smascherata con una sola parola che faceva impallidire Françoise, e nel conficcarla nel cuore della sventurata, la zia sembrava provare un divertimento crudele. E la domenica seguente, una rivelazione di Eulalie, come quelle scoperte che aprono all'improvviso un campo insospettato a una scienza nascente che si trascinava finora su strade già battute, forniva a mia zia la prova che le sue supposizioni erano molto al di sotto della verità. «Ma Françoise dovrebbe saperlo adesso che le avete dato una carrozza?» «Io? Le ho dato una carrozza?» esclamava la zia. Non so, credevo. L'ho vista passare poco fa, in calesse, fiera come Artaban che andava al mercato di Roussainville. Credevo che gliel'aveste regalata voi, Madame Octave. A poco, Françoise e mia zia, come la bestia e il cacciatore, non la smettevano più di cercare di prevenire l'una le astuzie dell'altra. La mamma temeva che si sviluppasse in Françoise un vero e proprio odio per la zia, la quale la offendeva con la maggior durezza possibile. In ogni caso, Françoise prestava sempre più una straordinaria attenzione alle frasi più insignificanti e ai minimi gesti della zia. Quando doveva chiederle qualcosa, esitava a lungo sul modo di formulare la richiesta, e una volta che l'aveva formulata, osservava la zia furtivamente, cercando di indovinare dall'espressione del suo viso quello che aveva pensato e cosa avrebbe deciso. E così, mentre qualche artista che legga i memorialisti del XVII secolo e voglia accostarsi al Gran Re, crede di procedere sulla strada giusta fabbricandosi una genealogia che lo fa discendere da un ceppo storico, oppure intrattenendo un carteggio con uno degli attuali sovrani d'Europa, volge in tal modo le spalle a ciò che ha il torto di cercare sotto forme identiche e di conseguenza morte, una vecchia signora di provincia, la quale non faceva altro che obbedire sinceramente a irresistibili manie e a una cattiveria nata dall'ozio, vedeva, senza aver mai pensato a Luigi XIV, le occupazioni più insignificanti della sua giornata, concernenti il risveglio, il pranzo e il riposo, acquistare per la loro singolarità dispotica un poco dell'interesse di quella che Saint-Simon chiamava la meccanica della vita a Versailles. e poteva credere perfino che i suoi silenzi, una sfumatura di buon umore o di alterigia nella sua fisionomia, fossero oggetto da parte di Françoise di un commento altrettanto appassionato, altrettanto timoroso quanto il silenzio, il buon umore, l'alterigia del re, quando un cortigiano o magari i più grandi signori gli rimettevano una supplica alla svolta di un viale a Versailles. Una domenica in cui la zia aveva avuto la visita contemporanea del curato e di Eulalie e si era poi riposata, eravamo saliti tutti a darle la buonanotte e la mamma si rammaricava con lei per la cattiva sorte che le portava i visitatori sempre alla stessa ora. «So che poco fa le cose si sono messe male un'altra volta, Léonie», le disse con dolcezza. «Vi sono capitati tutti insieme». Al che la prozia la interruppe per dirle: «Abbondanza di beni, perché da quando sua figlia era malata si sentiva in dovere di risollevarle il morale facendole sempre vedere il lato buono delle cose». Ma mio padre, prendendo la parola, disse: «Voglio approfittare, visto che tutta la famiglia è riunita, per dirvi una cosa senza bisogno di ricominciare da capo con ciascuno di voi. Temo che Le Grandin ce l'abbia con noi. Stamattina mi ha a malapena detto buongiorno». Non mi fermai ad ascoltare il racconto di mio padre, perché ero appunto con lui dopo la messa quando avevamo incontrato Le Grandin, e andai giù in cucina a informarmi sul menù della cena, che era per me una distrazione quotidiana, come le notizie che si leggono sul giornale, e mi eccitava come il programma di una festa. Quando Le Grandin c'era passato accanto, uscendo dalla chiesa, camminando a fianco di una castellana dei dintorni che conoscevamo soltanto di vista, mio padre gli aveva rivolto un saluto amichevole, al tempo stesso riservato, senza che ci fermassimo. Le Grandin aveva risposto appena, con aria stupita, come se non ci avesse riconosciuti, e con quella prospettiva dello sguardo tipica delle persone che non vogliono mostrarsi gentili e che dal fondo improvvisamente arretrato dei loro occhi hanno l'aria di scorgervi come alla fine di una strada interminabile e a una distanza così grande per cui si limitano a rivolgervi un impercettibile cenno del capo per adattarlo alle vostre dimensioni di marionetta. Ora, la nobil donna che si accompagnava alle Grandin era una persona virtuosa e rispettata. Era da escludere che ci fosse del tenero fra i due e che lui fosse imbarazzato di essere stato colto di sorpresa, per cui mio padre si chiedeva in che modo avesse potuto irritarlo. «Mi rincrescerebbe ancor più di saperlo in collera», aggiunse, «perché fra tutta quella gente vestita a festa, lui, con la sua giacchetta dritta, la sua cravatta floscia, ha un che di così poco inamidato, di così autenticamente semplice, e un'aria quasi ingenua che è proprio simpatica». Ma il consiglio di famiglia fu unanime nel ritenere che fosse solo un'idea che s'era messa in testa mio padre, oppure che Le Grandin in quel momento fosse assorto in qualche pensiero. D'altronde il timore di mio padre, già la sera seguente, venne dissipato. Al ritorno da una lunga passeggiata vicino al Pont Vieux, avvistammo Le Grandin, il quale, per via delle feste, restava a Combray diversi giorni. Ci venne incontro con la mano tesa. «Conoscete, signor lettore?» mi domandò. «Quel verso di Paul Desjardins? Sono già neri i boschi, ancora azzurro è il cielo? Non è una fine rappresentazione di quest'ora? Forse non avete mai letto Paul Desjardins? Leggetelo, ragazzo mio. Oggi, mi dicono, si sta trasformando in una specie di frate predicatore, ma per molto tempo è stato un limpido acquarellista. Sono già neri i boschi, ancora azzurro è il cielo». «Che il cielo possa restare sempre azzurro per voi, mio giovane amico, e anche nell'ora che su di me già incombe, in cui i boschi sono neri e la notte scende rapida, vi consolerete come faccio io guardando dalla parte del cielo». Trasse di tasca una sigaretta e restò a lungo con gli occhi fissi all'orizzonte. Poi d'un tratto disse: «Addio, amici», e ci lasciò.